Alessandro Mela, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. E allora, cari ascoltatori, dai che è venerdì, è venerdì. Tra l'altro il venerdì in cui si chiude la 125esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Decisiva, purtroppo con un nulla di fatto, ma la 126esima è lì alle porte e ce la faremo forse. Parleremo di tanti temi, del caso Volkswagen, delle auto, andremo avanti fino alle 9.30, è l'ultimo giorno fino alle 9.30, poi rientreremo da lunedì fino alle 9 come di consueto. E parleremo appunto, come detto, di Volkswagen, ma avremo anche il sindaco di Padova Bitonci ai nostri microfoni, così come parleremo di un terribile fatto di cronaca. Tanti temi, insomma, come al solito anche le vostre telefonate all'800 24 0024, questo dalle 8, i centralini sono aperti dalle 8, quindi non chiamate adesso e intanto andiamo a leggere i giornali. In questo venerdì 25 settembre, intanto le aperture, il Sole 24 Ore, lo scandalo auto affossa le borse, alla Volkswagen inizia l'era Müller, che è il nuovo amministratore delegato che verrà nominato oggi. Lo scandalo Volkswagen tocca l'Europa, anche il titolo del Corriere della Sera. Scandalo auto, l'Europa trema, così anche per il Messaggero, mentre il giornale tocca la BMW, ma non è finita. Ci sono voci, per la verità per ora smentite, che scandali simili possano toccare BMW. Il Fatto Quotidiano: non c'è solo la Volkswagen, due inchieste su tutte le auto. Mentre altri giornali come Repubblica mettono la visita del Papa negli Stati Uniti. Abolite la pena di morte, questo è il titolo di prima pagina, l'appello del Papa. Anche La Stampa: il Papa, America terra dei liberi, ma basta armi e pena di morte. E anche Avvenire, che apre sulla visita del pontefice, ai più potenti e agli ultimi. Questo è il titolo di prima pagina di Avvenire. Mentre Libero: l'Angela furbo diesel, bisogna leggere Angela perché ci si rivolge alla Merkel. E questo è il titolo di prima pagina. Partiamo appunto dalle notizie che riguardano la Volkswagen, che si affida al numero uno di Porsche. La scelta di Müller, che sostituisce dunque l'amministratore delegato di Volkswagen, che è stato fatto fuori, Martin Winterkorn, 68 anni, che se ne va, e su tutti i giornali c'è questa polemica, non solo giornali italiani, se ne va con una liquidazione di fatto di 60 milioni di euro. La maxi liquidazione da 60 milioni se il manager sbaglia e non paga. Pagina 9 del Corriere della Sera, Giovanni Stringa racconta: 28,3 milioni di euro di pensione totale, una buona uscita forse da 32 milioni di euro, la poltrona che già occupa nel consiglio di sorveglianza della squadra di calcio del Bayern Monaco e un'auto Volkswagen a disposizione per gli anni a venire. E questa è la lista di quel che resta a Martin Winterkorn, neo ex amministratore delegato di Volkswagen, una lista non corta, non scarna. L'onda lunga dello scandalo delle emissioni ha travolto la sua super poltrona, ma non tutto il suo regno, che si tratti di soldi, incarichi o piccoli benefit. Ed eccola qui allora, l'ex top manager, a meno di sorprese, spetterebbe la pensione da 28,6 milioni. Certo, la liquidazione, che equivale a 2 anni di retribuzione, lui prendeva 15 milioni nel 2013, 16,8 milioni nel 2014, quindi una liquidazione di 31,8 milioni, ma qui il consiglio di Wolfsburg potrebbe ridurre il max importo, potrebbe insomma fargli capire che tutti questi soldi per i danni che ha provocato potrebbero non essere corrisposti. Comunque il Corriere della Sera ricorda altri casi. Uno dei più eclatanti è Lehman Brothers, fallita nel settembre 2008 dopo 14 anni di governo dell'amministratore delegato Richard Fuld. Dal 2000 al 2007 lo stesso Fold aveva ottenuto 300 milioni di dollari in compensi, anche se lui spiegò che l'85% era in azioni Lehman e quindi una sorta di pugno di mosche. Resta però il 15% di 300 milioni di dollari, fate il calcolo, sono 30 milioni più 15, 45 milioni di dollari, non proprio bruscolini. La Enron, prima di precipitare nel 2001, aveva versato 744 milioni di dollari in bonus e azioni a 140 manager. Insomma, racconta il Corriere, non è la prima volta di un manager che di fatto non paga, anzi non paga, viene pagato lautamente nonostante i danni provocati. È il buongiorno di Massimo Gramellini che rilancia in prima pagina della Stampa questo tema, la buonissima uscita. Ma a voi sembra normale che il capo dimissionario di Volkswagen riceva 31 milioni rotti di buona uscita? Il rapporto causa-effetto vacilla. Martin Winterkorn non lascia l'auto del popolo per meriti acquisiti, ma perché la fabbrica, di cui è manager supremo, è stata travolta da uno scandalo senza precedenti. Il buon uscente ha già messo le mani e i portafogli avanti dicendo che è successo tutto a sua insaputa, ma non può sottrarsi dalle responsabilità. 31 milioni rappresentano un riconoscimento ingiustificato ed è stupefacente che proprio i tedeschi, così attenti alle ragioni del merito, così ossessivamente connessi al concetto di colpa, concedano a Winterkorn un compenso che sa di insulto al buon senso oltre che al buon gusto. Ma il contratto lo prevede, si dirà. Di sicuro prevederà delle eccezioni per i casi in cui il manager abbia arrecato un grave danno all'azienda, che lo pagava così bene anche perché all'occorrenza si è assumesso il ruolo di capro espiatorio. Si fa fatica d'altronde a immaginare che un operaio della Volkswagen, licenziato per aver avvitato male un bullone, avrebbe ricevuto 31.000, ma anche solo 31 euro di bonus. Così sulla Stampa, insomma, c'è la polemica su questo, ovviamente i riflessi in Italia. In Italia il ministro Del Rio, ministro dei trasporti, ieri a Porta ha detto che ci saranno circa 1 milione di vetture in Italia sotto attenzione. 1 milione di vetture, questa è la cifra più o meno secondo il ministro ai trasporti Del Rio. I dubbi sono su diverse centinaia di migliaia, ha detto, forse 1 milione. Abbiamo chiesto alle autorità tedesche di sapere quante sono quelle che montano il software truccato, ma non abbiamo ancora ottenuto risposta. Comunque ne parleremo dopo le 9. Voglio però concentrarmi su questa vicenda, mi ha fatto molto arrabbiare. A Roma, dopo il terremoto senza precedenti che ha travolto l'azienda dei rifiuti con l'arresto e anche l'incarcerazione dell'ex amministratore delegato Lama, è stato deciso di licenziare in tronco 37 impiegati e funzionari e 23 autisti, quindi un totale di 60 persone, perché, come racconta Cecilia Gentile a pagina 27 di Repubblica, non c'è alcuna vendetta, ma erano stati assunti con lo scandalo di Parentopoli cosiddetta. Licenziati. La nostra è stata una scelta coerente con le sentenze dei tribunali, dice il neopresidente dell'AMA Fortini, preso tutto in accordo col sindaco Ignazio Marino, che si è espresso da subito per il licenziamento. Oh, finalmente una buona cosa, secondo me. Se sono persone accertate, assunte per parentopoli, cioè senza merito, benissimo. I sindacati ricorrono. Eccolo lì, il ricorso dei sindacati. Non esiste il licenziamento collettivo. Vedremo caso per caso, ma annunciamo già ricorsi. Il sindaco Marino che dice il segnale è quello giusto, anche se andremo incontro a ricorsi, perché questo è il paese dei ricorsi, dei controricorsi. Io sono d'accordo, ma mi sa che alla fine chi lo sa. Oh, ma ragazzi, scusate, cosa ha combinato il Dalai Lama? Io ho visto questa intervista alla BBC e non ci volevo credere, il Dalai Lama. Adesso mi sa che dovremo istituire Miss Dalai Lama prossimamente. Il Dalai Lama ha fatto un'intervista alla BBC e ha risposto alla domanda: ma potrebbe essere il suo successore una donna? E già più volte si era espresso da questo punto di vista il Dalai Lama, dicendo certo, come no, assolutamente. E però ha aggiunto una frase che fa discutere moltissimo, soprattutto tra i buddisti in tutto il mondo. Il Dalai Lama divide le donne. Sì, può essere una donna, ma se sarà una donna dovrà avere un volto attraente. E il giornalista della BBC fa: "Are you serious?" Come dire, no, sta scherzando. "Sì, sono molto serio", gli ha risposto il Dalai Lama. Una risata come quella di un bambino che l'ha fatta grossa, così racconta Laura Baglio sul Corriere della Sera a pagina 22. Perché, dice il Dalai Lama, la donna biologicamente ha un maggior potenziale di mostrare amore e compassione. Ma se il mio successore sarà una donna, dovrà avere un volto molto attraente, se no non servirebbe a granché. Eccolo qui, il Dalai Lama. E al giornalista che diceva: "Ma scusi, ma sta scherzando?" "No, no, dico sul serio." Vabbè, Miss Dalai Lama, prossimo contest, l'anno prossimo, no, l'anno prossimo, quando succederà, insomma, tra un po' di anni, Miss Dalai Lama, potremmo scegliere così, il prossimo Dalai Lama. Con rispetto, si dice con rispetto. Ma eccoci qui all'articolo che mi fa pinzare della giornata. L'articolo che vi fa tenere certamente le mani ben strette sul volante, mani sul volante, a leggere Il Fatto Quotidiano con Angela Cappetta a pagina 11. L'ospedale dei record, succede al San Giovanni di Dio, Salerno. Indagati 850 assenteisti su 3.800 dipendenti. L'11 febbraio 2015 il caso di un'infermiera che entra, beggia e dopo 8 minuti risale in auto e va a fare shopping. E ancora 3 giorni dopo timbra il cartellino, ma poi va dal parrucchiere a fare la piega. E poi un altro dipendente che beggia e va a fare shopping, poi una passeggiata sulla spiaggia, poi ritorna solo alle 13.50 dopo aver fatto la sosta in macelleria e dal fruttivendolo per ribeggiare. E così, seguiti dalla Guardia di Finanza, si scoprono 800 indagati, per il momento 10 sospesi tra infermieri, tecnici e caposala, all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona a Salerno. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Alessandro Milan, il Dalai Lama d'Occidente. Eccolo lì, abbiamo trovato forse la Dalai Lama, che poi si chiamerà la o il Dalai Lama, donna, non lo so. Comunque, grazie cara ascoltatrice. Allora, la politica al Senato, si discute sui tempi, adesso si litiga sui tempi. Quando calendarizzare, dunque arrivare all'approvazione finale della riforma del Senato, dopo che gli accordi sono stati trovati, è stato tutto appianato, a parte gli emendamenti di Calderoli, ma ci arriviamo tra un attimo. Allora, l'accordo sarebbe di formalizzare tutto e votare entro il 13 ottobre. Renzi vorrebbe prima, ma pare che Pietro Grasso, il presidente del Senato, dunque ennesima frizione politica tra Renzi e il presidente del Senato, carica numero due dello Stato, Grasso abbia detto: io non faccio il boia della Costituzione, non sarò il boia sulla Costituzione. Perché Renzi vorrebbe, racconta almeno in un retroscena Goffredo De Marchis su Repubblica, pagina 12, usare la ghigliottina, cioè quello strumento che taglia in blocco tutti gli emendamenti e si passa direttamente al voto, soprattutto quando gli emendamenti sono considerati fatti apposta per ostruzionismo puro. E comunque si vedrà. L'altro tema è che sta succedendo nel centrodestra. Il Corriere della Sera racconta, come tutti i giornali, dei vari transfughi, dei vari ex di Forza Italia che abbandonano Silvio Berlusconi per abbracciare Verdini e il suo nuovo movimento. Verdini che appoggia invece la riforma del Senato, Verdini che era per il patto del Nazareno e quindi per l'abbraccio politico in nome delle riforme con Renzi, e dunque ora ci sono più voti di centrodestra e più persone disposte a votare la riforma. C'è anche, racconta il Corriere della Sera, una cena segreta. Romani è il capogruppo al Senato di Forza Italia, e la cena segreta della pattuglia azzurra tentata dal sì alla riforma. Lo racconta Tommaso Labate a pagina 11 del Corriere. Romani avrebbe riunito vari senatori: Gibiino, D'Alì, Caliendo, Ceroni. Questi sono i nomi, non conoscerete senz'altro, ma insomma sono questi i nomi. Si sono trovati in un ristorante in Piazza dei Caprettari, a pochi passi dal Pantheon, per questo gruppo di forzisti che sarebbero pronti a votare la riforma. Grandi trame. Anche il Fatto Quotidiano racconta in mezza pagina, pagina 6, il senatore tiene famiglia ed eccola la compravendita bis, i cambi di casacca, le accuse di Gasparri che addirittura accusa un collega di partito, Francesco Amoruso, dicendo il suo è un passaggio non dovuto a sofferenze culturali. Ad Amoruso del patto del Nazareno non gliene mai fregato nulla, gli interessano probabilmente le consulenze per i familiari. Ah, accusa dura, che vuol dire? Forse si riferisce come allo stesso Amoruso a cui si riferiva il direttore del giornale Sallusti, che ieri scriveva nell'editoriale che c'è un senatore alle prese con un complicato divorzio e dunque per placare le ire della moglie, limitare gli alimenti da pagare, si sarebbe detto disponibile a votare sì in cambio di un posto di lavoro fisso per la signora. Succede addirittura questo in Parlamento? Punto di domanda. Chi lo sa? Intanto Calderoli ha tagliato 10 milioni di emendamenti. Ne restano solamente 75 milioni. 75 milioni di emendamenti, con Calderoli che dice tengo duro e qualcuno che dice ma nessuno li ha mai visti fino a questo momento questi emendamenti. C'è una frase di un senatore renziano che dice sembrano un po' una leggenda metropolitana, la sorta di mostro di Loch Ness che tutti dicono esistere ma nessuno ha mai visto. Esisteranno questi milioni di emendamenti? Di certo però oggi stravince il commento urticante come sempre di Stefano Bartezzaghi su Repubblica che fa gli anagrammi, lui fa gli anagrammi. L'anagramma è questo: Roberto Calderoli uguale Tiarreco Bordello. Questo è l'anagramma di Roberto Calderoli, Tiarreco Bordello. Risultato di tutto ciò, pratico sul Parlamento, probabilmente, così scrive Repubblica pagina 17, le unioni civili verranno rinviate al 2016. La data di approvazione era fissata attorno al 15 di ottobre, ma il Senato è occupato sulle riforme e dunque la legge resta fuori. I Dem, cioè il Partito Democratico, vorrebbero inserirla in aula il 14, ma non sarà votata. E qui partono accuse. C'è un'intervista a Scalfarotto, viceministro di Renzi, che è uno di quelli che più si è battuto e si batte per le unioni civili, che dice noi, il PD, il governo, hanno lottato più di sé il Movimento 5 Stelle. Ma certamente il rischio, scrive Repubblica, è questo, che le unioni civili, che Renzi ha detto si faranno entro fine anno, in realtà debbano slittare per motivi di calendario al 2016. Vabbè, lasciamo la politica. Questo invece è un qualcosa che interessa molto, credo, gli italiani, soprattutto i cinquantenni. È un'analisi di Dario Di Vico in prima pagina del Corriere, riguarda la crisi. E il titolo è questo: perché la crisi travolge i cinquantenni. Scrive Dario Di Vico: la grande crisi ha messo nel mirino in Italia i cinquantenni, diventati il target privilegiato delle ristrutturazioni aziendali. In questi anni le imprese hanno molto cambiato il modo di operare, gli input del mercato sono precisi, una volta il ciclo di vita di un prodotto era di 15 anni, oggi siamo a 3. Le conseguenze sulle competenze sono devastanti, si diventa obsoleti alla velocità della luce. Il cinquantenne, magari separato, che si rivolge alla Caritas, è diventata un'istantanea della crisi. Ha ragione chi sostiene che si tratta di casi isolati, è difficile ritrarre tutti gli ex dirigenti, quadri, operai come dei questuanti abituali. Quale sia la verità è però vero che la grande crisi ha messo nel mirino proprio loro, i cinquantenni. In questi anni le imprese hanno proprio cambiato il modo di operare al proprio interno e nei rapporti con l'esterno. E c'è questo dato, appunto, ripete Dario Di Vico, gli input del mercato, il ciclo di vita di un prodotto che era di 15 anni oggi diventa di 3, le conseguenze sono devastanti. È vero che le aziende italiane sono accusate di non avere programmato l'evoluzione delle professionalità, di aver dato poco spazio alla mobilità interna. Certo è che le retribuzioni sono concentrate sulla parte fissa, per cui salendo l'età aumenta il costo e rende il taglio del cinquantenne appetibile. Eppure è altrettanto vero che i dati Istat segnalano come per i lavoratori maturi cresca sia l'occupazione sia la disoccupazione. ma si tratta di un effetto statistico legato all'invecchiamento della forza lavoro. Infine, vale la pena sottolineare che il problema dei lavoratori troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per trovare un nuovo lavoro è totalmente maschile. Sono quelle territoriali, casomai, le differenze più larghe, perché i cinquantenni del Sud sono disoccupati e basta. È l'analisi profondo Italia di Dario Di Vico sul Corriere della Sera. Giovani per la pensione, obsoleti per le aziende, la crisi dei cinquantenni. Non so quanti anni abbia Mauro Meazza, ma è qui con noi. Buongiorno Mauro. Caro Mauro, chi lo sa se ci sente il nostro Mauro Meazza? Sarà con noi? Non sarà con noi? Sarà la capolista? Sarà quest'aria friccicorina della sensazione che la fortuna per l'Inter stia per finire, che lo ha fatto desistere da questo nostro incontro quotidiano, a dire meglio lasciar perdere, meglio dedicarsi ad altro, meglio non occuparsi. Eccoci Mauro, buongiorno. Non facciamo più domande sulla mia anagrafe. Coperto dalla privacy. No, scherzo, sono abbastanza... Diciamo che al netto delle questioni, dei problemi tecnici, sono proprio nella target perfetto, nella platea che descrivevi prima. Ti volevo però dire, caro Alessandro, sì, che oggi è un giorno decisivo, sì, lo dico io, perché aspettiamo la proroga della voluntary disclosure, o voluntary disclosure, come dice invece Angelino. Aspettiamo il nuovo termine che verrà fissato da un decreto legge presumibilmente al 30 novembre, dove l'ho letto sul Sole 24 Ore di oggi, naturalmente, dove tra l'altro cominciamo anche questa serie di spiegazioni sulla riforma fiscale. Ti sei messo la cravatta? Perché ti avevo infatti informato che si cominciava con oggi la spiegazione. Cominciamo dai reati tributari. Bene. Sono state riviste parecchie cose nei reati tributari. Trovi tutto nelle pagine di norme tributi. A proposito dei tuoi due urini, non è che me li hai movimentati a San Marino? No, perché ci sarebbe un problema. Perché diciamo che, leggendo appunto sul Sole 24 Ore, vedo che ci sono controlli su 27.000 contribuenti. Non so se anche tu sei di quelli che hanno movimentato i due urini o qualcosa più dei due urini a San Marino. Vabbè, voglio darti due notizie da dita incrociate, cioè speriamo che siano buone notizie. Riguardano l'andamento degli ordini interni e le vendite al dettaglio di luglio. Bene per entrambe le cose, entrambe le voci, più 10% sugli ordinativi interni dell'azienda, più 1,7% per le vendite, che è comunque il terzo rialzo. Dove ho letto tutto questo e dove puoi approfondire? Medita sulle pagine di Impresa e Territori. Religiosamente. Quelle lì magari anche non religiosamente, però diciamo pragmaticamente, ecco, direi pragmaticamente sulle pagine di Impresa e Territori. Poi se mediti invece su quelle di finanza, della parte di finanza, scoprirai che le banche hanno chiesto pochi soldi questa volta all'asta della BCE per i finanziamenti targeted, il TLTRO, che vuol dire soldi presi in prestito per poi girarli all'economia reale. In questa nuova tranche le richieste sono state poche. Questa non potrebbe essere una buona notizia, ma non ci sbilanciamo. Sì. E poi siamo tutti qui che aspettiamo la stabilità. Eccoci. Tu l'aspetti? Sì, sì. Allora, mettiamoci in ordine, mancano ancora un po' di giorni, bisogna arrivare alla metà di ottobre, saranno settimane, dillo tu. Decisive. Ok, però dentro la stabilità, oggi per esempio su Sole 24 Ore affrontiamo le questioni di un possibile taglio delle imposte per le imprese al sud, degli esodati e dell'opzione donna, nonché, per tornare dove siamo partiti, la flessibilità in uscita, cioè anticipare la pensione. Non so se anche per me, rivolgo una preccia a questo punto al nostro comune amico che si occupa del personale lì nell'azienda. E tutto ciò premesso, con tanti cari auguri per il fine settimana, anche caro poi. Alessandro. Traffico! Per me, la rassegna stampa di Alessandro Milan è una cagata pazzesca! Vabbè, questa è sempre una delle migliori. Allora, il Papa negli Stati Uniti, prima volta che un Papa parla in un congresso americano, al congresso americano, e ha detto anche dei temi molto molto sentiti negli Stati Uniti, tipo stop alle armi, alle guerre, stop alla pena di morte. Per la verità, il Corriere della Sera con Massimo Gaggi racconta che sui temi politici proprio metà del congresso non applaude il Papa. Sulla pena di morte, però, vi voglio segnalare un articolo di Tar Benjelloun, intellettuale e scrittore, una pagina 25 del quotidiano Repubblica, perché sapete, di pena di morte si parla molto spesso, di pena di morte associata agli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti, essendo una democrazia, fanno tutto in maniera molto trasparente, con la possibilità addirittura di intervistare i condannati a morte. Altri paesi invece fanno le cose in modo molto più massiccio come esecuzioni e sbrigativo. L'Arabia Saudita, per esempio, sentite questa storia, questo appello che Tar Benjelloun fa su Repubblica. Il mondo salvi Ali, condannato alla crocifissione dal regno del petrolio. Il caso fa le cose per bene. Qualche giorno prima che Ali Mohammed al-Nimr, 20 anni, nipote di un oppositore sciita del regime in Arabia Saudita, fosse condannato a essere decapitato e poi crocifisso fino a putrefazione avvenuta, Faisal bin Assad Trad, l'ambasciatore saudita, è stato eletto a Ginevra presidente del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Un umorismo color petrolio. L'Arabia Saudita, da sempre governata dalla stessa famiglia, emette sentenze di morte a ogni piè sospinto. È il paese che detiene il record mondiale di esecuzioni capitali. Secondo i media e le associazioni per i diritti umani, quest'anno ci sono state già 133 esecuzioni. Il crimine di questo ragazzo, che al momento dell'arresto aveva 17 anni, è di avere partecipato a una manifestazione contro il regime. La sentenza supera i limiti della comprensione. È un assassinio. Quel ragazzo non ha ucciso, né violentato, né rubato. Ha solo partecipato a una manifestazione nel corso della primavera araba. Se sarà giustiziato, le Nazioni Unite dovrebbero perseguire l'Arabia Saudita, ma non lo faranno. Cosa fare in questi casi? Lasciar correre, stare zitti, tenere un profilo basso per non perdere qualche contratto? Starsene dietro la propria vigliaccheria, distogliere lo sguardo? Ma è inammissibile, scrive Jalloun. Per giudicare i governanti che hanno commesso crimini contro l'umanità c'è la Corte Penale Internazionale. Perché non viene denunciato chi amministra la giustizia in quel paese? Già la condizione femminile è tra le più scandalose del mondo civile. Il fatto di esprimere un'opinione, di osare opporsi a un sistema arcaico, è punito con la morte. Ecco, questo è l'appello che fa Jalloun. Anche la Francia si è mobilitata per salvare la vita di Ali al-Nimr, condannato a morte in Arabia Saudita perché ha partecipato a una manifestazione anti-regime. Ah. Veniamo a cose più italiane, prosaiche. Roberto Saviano è ancora sotto la lente di ingrandimento delle critiche. Questa volta è il suo ultimo romanzo 000, dedicato al mondo della cocaina, della droga, dei traffici internazionali. C'è una rivista americana, un sito americano per la verità, Daily Beast, che attacca Roberto Saviano dicendo ha copiato interi stralci di alcune interviste. Per esempio l'intervista a tale narcotrafficante Angel Miguel. L'ha incontrato perché la conversazione somiglia moltissimo a una storia del 2005 scritta sulla rivista Notimex da José Luis Castillejos. E allora l'accusa, che per la verità Saviano ha dovuto sostenere anche in tribunale per parti di Gomorra. Scrittore o giornalista copione? Il dilemma. Questo è l'articolo di Silvia Truzzi sul Fatto Quotidiano, ma anche il giornale Libero mettono in prima pagina. Il giornale Libero attaccano spesso Saviano e Saviano si difende. Due pagine su Repubblica intere. Vi spiego il mio metodo tra giornalismo e non fiction. Accade sempre così, scrive Saviano. Prima Gomorra, poi 000. Quando un libro ha molto successo, quando supera il muro dell'indifferenza, quando le storie che veicola iniziano a creare dibattito, è quello il momento giusto per fermare il racconto. Non ho tempo per leggere queste due pagine, ma in queste due pagine c'è questa difesa di Saviano. Lo trovate su tutti i giornali, su Repubblica. Saviano si difende e risponde e replica a chi accusa di avere copiato parte parte del libro. Oh, c'è una storia terribile, solo l'accenno, riguarda, ricordate gli immigrati a Ventimiglia? Il secolo XIX racconta ora che una ragazza volontaria per i migranti dice: sono stata stuprata al confine da un senegalese, ma per un mese mi hanno chiesto di tacere. È una delle No Borders, una delle associazioni che aiutano i migranti, che dice: mi hanno violentata un mese fa, ma mi hanno detto di tacere per non creare polemiche sugli immigrati. Il secolo XIX. Ma eccoci qui, la carta costa, l'articolo più inutile sui giornali, una pagina del giornale con tutte le faccine dei concorrenti del Grande Fratello! Ma chi se ne frega!